si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, alle 8:32 minuti una nuova puntata di Si può fare, una puntata che sarà ricchissima, vi diremo tra poco, tra gli altri parleremo anche di scuola con il nostro preside Gianni Trezzi. Oggi ci sono tante novità che riguardano la scuola e vedrò già che ci sono degli sms che sono stati inviati al nostro giornale radio, e quindi restate in linea perché parleremo per l'appunto anche di questo, anche con il sindaco Dario Nardella a Firenze, che vuole riaprire in parte le scuole, almeno fino all'età della scuola media. Prima di tutto però diamo un buongiorno anche a Carlo Gabardini, in collegamento come sempre in questo periodo. Buongiorno Carlo. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Sei pronto anche oggi per parlare di tante cose, anche appunto, come dicevo, di scuola e anche del personaggio della settimana, no? Sì signore, sono pronto, prontissimo, come dicevi tu, una puntata ricca, sentiremo il sindaco Nardella, ma parleremo di molte altre cose, anche di travel blogger, di ambiente, perché ultimamente se ne parla tanto, da domani si torna, no? Non riapre tutto, ma riapre molto, e quindi questo straordinario abbattimento della CO2 che abbiamo avuto in questo periodo si concluderà. E allora come si può andare avanti rispettando l'aria delle nostre città e di conseguenza i nostri polmoni? Ne parliamo qui con un ex ministro, Edo Ronchi, che insomma di questo tema sicuramente ne sa. Per quel che riguarda il personaggio della settimana, ovviamente bisogna indovinare qualcuno o qualche situazione, insomma, di buono nel corso della settimana. Noi vi daremo gli indizi, voi chiamerete l'800 24 00 24 per dirci chi è secondo voi il personaggio che ha fatto un si può fare per l'appunto nel corso della settimana. Carlo, diamo già il primo indizio? Direi che diamo subito. Dai, vai. Sì, diamo subito il primo indizio, assolutamente. Allora, il personaggio della settimana ha pensato al bene altrui. Questo è il primo indizio. Ha pensato al bene altrui. 824 0024 per prenotarsi e dare la vostra risposta al quesito, 349 238 6666 invece per SMS e WhatsApp. Prima di proseguire, Carlo, aspettiamo tutti il consiglio della settimana. Questa volta cosa ci porti? Libri, video? Cosa? Questa volta è un documentario, quindi non da leggere ma da guardare. Il mondo dei documentari, devo dire che riserva sorprese incredibili. Al giorno d'oggi è anche una forma d'espressione totalmente rivoluzionata o addirittura rivoluzionaria, intrigante, emozionante e anche molto narrativa, come poche altre, devo dire. Potrebbe sembrare un discorso di parte questo, perché sto lavorando anch'io alla scrittura di un documentario in più puntate, dunque ne sto vedendo parecchi, ma vi assicuro che questo vi inchioderà alla poltrona. Sto parlando di Tiger King, la docuserie prodotta e distribuita da Netflix, che è uno dei programmi televisivi ultimamente più visti al mondo, probabilmente ne avrete anche già sentito parlare. Per fare un esempio, è uscita il 20 marzo e ha avuto più di 34 milioni di visualizzazioni in soli 10 giorni. Certamente il fatto che siamo tutti chiusi a casa ha dato una mano agli ascolti mondiali, ma stiamo pur sempre parlando di un documentario, che le persone ne discutano animatamente nei bar e nei fast food di tutto il mondo è davvero un grandissimo traguardo. Ma di che cosa parla? Tiger King racconta vita, follie e abitudini di Joe Exotic, alias Joseph Exotic Maldonado Passage, pazzo ed eccentrico proprietario di uno zoo in Oklahoma, che si infila in una miriade di guai giudiziari e finanziari fino a finire poco fa in carcere con una condanna a 22 anni di reclusione. In mezzo si candida anche a presidente degli Stati Uniti, fa dei video musicali che sono diventati virali perché sono comici da quanto siano trash, il cosiddetto white trash. Ma racconta anche molto altro, racconta della sua nemica giurata Carol Baskin e di altri bizzarri proprietari di zoo privati americani, e parla dello sfruttamento e del mercato illegale dei grandi felini come tigri e leoni. Si vedono una quantità di tigri e leoni che io personalmente non avevo mai visto. Parla anche di morti, di scomparsi, personaggi borderline che difficilmente dimenticherete, e soprattutto mostra e fa capire anche quanto sia reale e diversa da come ce la immaginiamo l'America profonda, quella maggioritaria. Ecco, diciamo che se qualcuno ancora crede, non crede possibile che gli Stati Uniti d'America abbiano eletto nel 2016 a proprio presidente uno che contro il Covid ha consigliato di iniettarsi candeggina nelle vene, ecco, da questo documentario potrebbe estrarre parecchi indizi su come sia la situazione laggiù. Il documentario è talmente intricato e avvincente che pare che potrebbe addirittura esserci una seconda stagione, un episodio ad hoc aggiuntivo composto di sole interviste girate in casa. È stato prodotto in fretta e furia durante questo lockdown e già lo trovate su Netflix. È una puntata incredibile, appunto, perché è girata durante l'emergenza virus. Trump ha anche annunciato che forse darà la grazia a Joe Exotic. Guardate il documentario e fatevi la vostra idea su che cosa ha fatto Joe Exotic. Le indagini svolte e narrate potrebbero anche riaprire alcuni vecchi processi, così ha detto lo sceriffo, che sembravano dimenticati. Hollywood addirittura ha detto che sta pensando a uno o più film. La realtà supera la finzione, è veramente la banalità che continui a pensare durante la visione, mentre dici no dai, ma non ci credo, non è possibile, ma non è possibile. Ma aggiungo che se della finzione uno può scegliere tranquillamente di farne a meno, la realtà, ciò che ci circonda veramente, invece, conviene davvero provare a conoscerla. E sai cosa ti dico? Che a proposito di realtà, ma una realtà del tutto diversa, molto più tranquillizzante, beh, possiamo conoscere questa realtà grazie anche ai racconti dei travel blogger, ovvero di persone esperte di viaggio che poi narrano di questi viaggi in questi diari su internet, i blog. Ebbene, i travel blogger italiani, 180 di loro, si sono riuniti in questo difficile periodo per sostenere da una parte Emergency e dall'altra per farci conoscere l'Italia. Nicoletta Sala, travel blogger e fondatrice del blog One Two Frida, è la promotrice di questa iniziativa ed è in collegamento con noi. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno, ciao a tutti. Allora, buongiorno. Travel blogger per l'Italia si sono riuniti e che cosa fanno, cosa propongono? Allora, ci siamo messi insieme perché volevamo fare qualcosa di concreto, quindi dare una mano in questo momento perché ce n'è davvero bisogno. Quindi abbiamo lanciato una raccolta fondi a favore di Emergency per dare una mano ora all'Italia durante l'emergenza Covid-19. E, allo stesso tempo abbiamo fatto quello che i travel blogger sanno fare, quindi abbiamo raccontato l'Italia. Abbiamo deciso di raccontare dei paesi, dei borghi, dei castelli meno noti, meno conosciuti al pubblico, e mi è venuta fuori una guida all'Italia da riscoprire. È una guida completa perché sono più di 700 pagine, più di 270 destinazioni sparse su tutte le regioni che appunto 180 blogger hanno voluto raccontare perché sono i luoghi, i loro luoghi del cuore, quindi quelli che hanno voluto rivalorizzare. E l'obiettivo che ci siamo dati è quello di ispirare gli italiani a riscoprire l'Italia, perché il nostro paese è innegabilmente bellissimo, quindi dobbiamo essere tutti orgogliosi delle bellezze italiane. E quindi diciamo, questo è il nostro ringraziamento che invieremo a tutti coloro che appoggeranno la nostra raccolta fondi, quindi con una donazione minima libera, non abbiamo messo un prezzo ovviamente, ognuno dona quello che vuole appunto per la raccolta Travel Blogger per l'Italia a favore di Emergency. Noi doneremo la nostra guida. È una guida cartacea o è una guida? No, è una guida digitale, quindi il meccanismo è. Ah, ecco, perché mi spaventava moltissimo 700 pagine in carta. No, è un da ebook. Portarsi dietro in bicicletta. Il meccanismo è semplice, bisogna collegarsi alla pagina di Emergency dedicata a questa campagna, quindi il link è sostieni.emergency.it/travelblogger per l'Italia. si fa una donazione con carta di credito o con PayPal, appunto l'importo è libero, ognuno dona quello che vuole, si riceve una mail di conferma della donazione e di ringraziamento all'interno della quale c'è un pulsante per scaricare l'ebook. E quindi vabbè, uno se lo scarica e poi decide dove andare. L'ebook com'è composto? Cioè sono i vostri racconti rielaborati in modo da diventare un libro? Sì, è costruito come una guida di viaggio, quindi ci sono i vari capitoli per ogni regione d'Italia e all'interno di ogni capitolo ci sono le varie destinazioni che abbiamo voluto raccontare. Ok, però è una guida diciamo che nasce nuova per questa occasione? Assolutamente, sì, è inedita, con racconti e foto dei travel blogger che hanno voluto aderire a questa iniziativa. Con che criterio? Senti, ma devo chiederti una cosa, ma quanti sono i travel blogger? Perché 180 è un numero pazzesco, è un numero incredibile, cioè ricordiamo anche agli spettatori, i travel blogger sono coloro che girano, viaggiano e sostanzialmente comunicano e raccontano i loro viaggi sui social e vivono di questo, guadagnano di questo. Mi sembra un numero incredibile 180 travel blogger, spesso forse ce lo dimentichiamo quante persone fanno questo di lavoro. Sì, allora, questa iniziativa è, a mio parere, molto bella perché ha unito sia persone che lo fanno appunto come lavoro di professione, sia blogger che lo fanno invece per passione, e quindi c'è, diciamo, rappresentato tutto il mondo del travel blogging italiano, dai blog più piccoli. Tutto l'arco costituzionale del travel blogging. Esatto. I travel blogger in Italia, includendo appunto anche quelli che lo fanno per passione, sono tantissimi, io non ho il numero esatto, però è vero che 180 è un bel numero. Sì. E noi abbiamo usato il passaparola per coinvolgere chi voleva aderire a questa iniziativa. Devo dire la verità, qualcuno purtroppo l'ha scoperto tardi, perché noi abbiamo cercato di fare il tutto il più in fretta possibile per cercare di arrivare tempestivi ora sull'emergenza, e quindi c'è qualcuno che si sta unendo ancora oggi, quindi non hanno fatto in tempo a rientrare all'interno della guida, però ci stanno dando una mano a comunicare questa iniziativa che è aperta fino al 10 di maggio. E quindi da 180 stiamo crescendo ancora. E quindi ci saranno degli upgrade della guida magari? dei contributi pensando, nuovi? Esatto, ci stavamo pensando per far rientrare appunto questi travel blogger che si sono aggiunti dopo, e così faremo una seconda edizione riaggiornata. Ma questa per voi è una... Ma ci dici una meta strana? Ci racconti una meta che nessuno si aspetterebbe che c'è in questa guida? Possibilmente allora, una meta che si possa raggiungere anche durante questo periodo difficile. Vi posso dire quelle che ho raccontato io. Io ho parlato di un paesino qui delle mie zone, io sono in provincia di Varese, e il paesino si chiama Arcumeggia ed è un borgo dipinto. Quindi è un paese che nella seconda metà del 1900 ha richiamato artisti da tutta Italia, compresi anche dei pittori locali, e, per affrescare le pareti delle varie abitazioni del borgo. E quindi è molto carino, si trova arroccato in montagna. In questo momento è abitato da una trentina di persone, quindi è un borgo molto, molto piccolino. E poi per esempio ho parlato di un luogo in Calabria, per spostarci al sud, a Cassano allo Ionio, ci sono delle grotte bellissime, le grotte di Sant'Angelo, che sono meravigliose sia dal punto di vista naturalistico, perché come tutte le grotte sono di origine carsica e hanno scalattiti, stalagmiti, forme meravigliose che si possono ammirare, quindi da un punto di vista naturalistico, ma sono importanti anche da un punto di vista storico, perché qui sono stati fatti dei ritrovamenti di resti umani risalenti al preistorico, e addirittura si pensa che qui ci possa essere stata il primo segno di scrittura che è stato ritrovato in Italia, e quindi è appunto un luogo che ha questa ambivalenza sia naturalistica che storica. Grazie, Nicoletta, ti devo fermare, scusami. Allora, ricordiamo a tutti dal sito di Emergency, forse la via più semplice per accedere. Nicoletta Sala, travel blogger, è stata con noi. Buon proseguimento, allora, in bocca al lupo per i prossimi viaggi. Grazie, grazie mille. Ciao. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Allora, come dicevamo, adesso parliamo di crollo della CO2 e, come avevamo anticipato, il nostro ospite sarà Edo Ronchi, è già anzi in collegamento con noi. Buongiorno, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile. Allora, abbiamo visto in questo bello studio che avete diffuso nel corso della settimana con Italy for Climate i dati reali, no, di questo crollo della CO2 in questo periodo. Chiaramente non volontario, però sarebbe quello, questa sarebbe la situazione nella quale dovremmo trovarci al 2030, ho capito bene? Beh, sì, perché abbiamo fatto il calcolo partendo dal calo del consumo del gas, del petrolio, del carbone che consumiamo poco, e quindi abbiamo proiettato questo calo del consumo di energia in CO2 nel mese di marzo, e abbiamo visto che c'è stato un calo di circa il 17%, e queste emissioni corrisponderebbe a un equivalente dell'obiettivo del dimezzamento delle emissioni al 2030, che è l'obiettivo in traiettoria con l'accordo di Parigi. Però adesso noi l'abbiamo avuto per grande cambiamento del modello energetico, esatto, che sarebbe necessario, non che durerà ovviamente un calo di energia come quello che c'è stato nel mese di marzo con tutto fermo, però è interessante, diciamo, la dimensione che è necessario raggiungere del taglio delle emissioni. Dall'altra parte sì, prego Carlo. No, credo che fosse la stessa domanda che volevi porre te. La cosa che ci chiediamo è se questa è una buona notizia, perché da un lato vediamo una miglioria sulla questione dell'inquinamento, dall'altro se l'unico modo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati è il lockdown, siccome non credo che il lockdown sia fra le opzioni interessanti o valide per diminuire l'inquinamento, perché nessuno intende rimanere in lockdown fino al 2031. Mi chiedo se questa è una buona notizia, cioè se l'unico modo per raggiungere gli obiettivi di Parigi o come altro vengono chiamati è quella di fermare tutto, questa è una buona notizia? No, certamente non lo è, non lo sarebbe, diciamo dall'idea, questa riduzione è da raggiungere almeno in 10 anni, quindi diciamo si può fare molto altro, non è il lockdown, è solo un... Si può trovare di meglio? Assolutamente sì, però dà l'idea di un grande sforzo che va fatto di riduzione e di cambiamento della mobilità, del cambiamento della decarbonizzazione di molti settori industriali. E, tra l'altro, l'altro ieri è uscito anche lo stesso studio a livello mondiale fatto dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, è ancora più interessante perché proietta su base annua, cioè sul 2020, e dice che quest'anno ci sarà una riduzione delle emissioni dell'8% del gas serra, una riduzione simile non si è mai verificata, neanche con la crisi del 2008-2009. Avverte però l'Agenzia per l'Energia che guardate che appena è finita la crisi, cioè già dal 2010, le emissioni hanno ripreso a crescere e a galoppare, e da allora non sono più calate fino fino ad oggi. Quindi, ma infatti qui si potrebbe verificare proprio quell'effetto rimbalzo preoccupante che voi spaventate già in questo rapporto. Esatto, che dice anche l'Agenzia Internazionale dell'Energia proprio in questo rapporto appena uscito sulla proiezione della riduzione sul 2020. E quindi qua ci sono due temi. Uno è la proiezione futura. Quindi se non altro, come dice l'agenzia, cercate di capire quali sono invece le misure da rafforzare. Questo è un po' il senso di questa riflessione. Cosa quindi una fare? È costruire il futuro, diciamo, e una è l'immediato. Adesso attenzione alla ripartenza. Esatto, è proprio così. Per esempio le misure che stiamo prendendo per il traffico, per affrontare la mobilità urbana, che molte città stanno prendendo, rafforzando la mobilità ciclopedonale, potrebbero, diciamo, funzionare bene anche a regime, anche usciti dalla pandemia. Non c'è bisogno di usare per forza in modo così massiccio l'auto nelle città, per esempio. Queste misure che stiamo vedendo prendere in città, come ad esempio Milano, sono a suo vedere convincenti o scarse? Certamente sì, come vede potrebbe diventare una buona abitudine quella di usare molto meno l'auto e di puntare molto di più sulla mobilità ciclopedonale e anche sulla micromobilità, questo il monopattino elettrico che sta andando molto bene. Ovviamente questo risponde anche al fatto che c'è una difficoltà a pigliare il trasporto pubblico con una riduzione dei posti effettivamente utilizzabili, e questo certo non è un bene. Diciamo tuttavia l'aspetto della mobilità ciclopedonale potrebbe trarne un beneficio anche a regime, e questo comporta certamente una riduzione delle emissioni. I bonus. Senta, ma sì, quali possono essere queste soluzioni alternative? Perché da un lato diciamo siamo tutti che non vediamo l'ora di ripartire, dall'altro giustamente voi allertate su questa ipotesi di rimbalzo, cioè che addirittura l'inquinamento non solo torni ai livelli precedenti, quindi diciamo quelli di febbraio, ma addirittura li superi. Però ci chiediamo che cosa si può fare, che cosa possiamo fare per evitare questo pericolo, per provare a scampare questo pericolo, ricordandoci questo anche che per decenni ci siamo detti... È un esempio molto importante. Un altro dato che evidenzia l'agenzia ed anche noi, che la produzione di elettricità da fonte rinnovabile anche durante il lockdown non cala, perché c'è una priorità di dispacciamento e c'è una certa attenzione concentrata sulle rinnovabili. Benissimo, possiamo aumentare sia la produzione che l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per produrre elettricità, carburante e anche per utilizzi termici. Quindi questa trend anche verso l'elettrificazione dei consumi va molto bene, perché l'elettricità è sempre più da fonte rinnovabile. Questa è un'altra delle cose. Sì, che però possono... mi scusi, questo era lo stesso modo che usavamo, diciamo, che abbiamo usato per gestire la questione energetica prima del coronavirus. Adesso che c'è il coronavirus e non possiamo far finta di niente, diventa difficile, cioè non bisogna reinventarsi un po' tutto. Le faccio un esempio: per molti anni abbiamo insistito sui mezzi pubblici, usate i mezzi pubblici, lasciate a casa la macchina, e adesso si dice i mezzi pubblici non sono il posto più sicuro, quindi in metropolitana bisognerà andare in un terzo di quelli che ci andavano prima, in autobus la metà, e quindi diciamo non è il momento migliore per dire alle persone non usate è l'automobile. Positiva, questo è evidente, per esempio, e quindi questo bisogna aspettare, superare questo momento e tornare a usare i mezzi pubblici, però spinge anche alla mobilità ciclopedonale, che invece è un trend positivo. L'altro è la riduzione degli spostamenti non necessari, per esempio aumentare lo smart working, il lavoro intelligente o flessibile fatto da casa. Questo potrebbe aumentare anche in futuro. Io avevo una curiosità da porle prima di dover dare la linea al giornale radio, cioè abbiamo visto crollare molto le emissioni nell'area nord, quindi nell'area padana, diciamo, sì. Ma non tanto quanto ci saremmo aspettati. Da cosa derivano questi altri, da un punto di vista proprio dell'inquinamento invece atmosferico, non delle emissioni di CO2? Questo inquinamento che noi abbiamo visto in assenza di riscaldamenti, in assenza di traffico, in assenza di fabbriche. Lì ci sono fattori, diciamo, di pressione, quindi di concentrazione di inquinanti, che c'è meno rimescolamento dell'aria in certi periodi dell'anno, e quindi questo, l'inquinamento tende a permanere anche se si abbassa. Poi ci sono altre fonti, abbiamo visto che l'utilizzo di biomassa in impianti di riscaldamento diciamo poco avanzati, non muniti di adeguate tecnologie di combustione, concorrono in maniera importante al particolato sottile, perché usano la legna o composti a base di legna, e anche l'ammoniaca nell'agricoltura, le emissioni degli allevamenti. Insomma, c'è un inquinamento diffuso che non deriva solo dal traffico o dagli impianti industriali. Vabbè, abbiamo da lavorare su molti fronti e essere particolarmente attenti, direi, soprattutto nei prossimi mesi. Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile, noi la ringraziamo, le auguriamo una buona domenica, un buon proseguimento. E adesso abbiamo GR24. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ed eccoci di nuovo insieme ed eccoci con il primo concorrente per l'indovinello della settimana. Il personaggio bisogna indovinare, e per farlo bisogna chiamare l'824-0024, come ha fatto Marco dalla provincia di Viterbo. Buongiorno. Buongiorno, la provincia in realtà è Verbania, non Viterbo. Allora, infatti vedo già Edoardo là che si chiede scusa, ma l'importante è che lei abbia chiamato e che magari indovini il personaggio della settimana, Marco. Ma io ho pensato al cantante Ed Sheeran, perché a causa della pandemia ha dovuto chiudere un locale di cui è proprietario. Però ha deciso, mettendo a casa i dipendenti, di continuare a pagarli di tasca sua al 100%. Ok, vediamo un po' cosa ci dice. No, non era Ed Sheeran, però insomma ci ha ricordato. Carlo, sei in collegamento, vero? Sono in collegamento e ho sentito la storia di Ed Sheeran e sono contento anche che l'abbiamo ricordata. E però non era lui, e quindi potete continuare a chiamare per cercare di indovinare il personaggio della settimana. Grazie Marco per averci chiamato. Diamo anche un secondo indizio, cosa dici? Abbiamo dato il primo, che era ha pensato al bene altrui, diamone un altro. E è stato ringraziato, questo è il secondo indizio, quindi il personaggio che stiamo cercando ha pensato al bene altrui ed è stato ringraziato. Ricordo anche che Ed Sheeran, se non sbaglio, ha dato 1 milione di sterline sempre per la questione del coronavirus in beneficenza. E bravo Ed Sheeran, e beato lui che ce l'aveva anche, però vabbè, questa considerazione del tutto personale. Adesso cambiamo argomento. A credo, Carlo, un po' di tutto in questo periodo per quel che riguarda le nostre possibilità di tornare al mare e come, in che condizioni, con che distanziamento dai vicini. Abbiamo parlato di plexiglass, adesso si parla addirittura di pannelli di tessuto, sicuramente un po' meno invasivi, no? Direi almeno all'occhio suonano meglio. Sì, sì, direi che siamo stati terrorizzati dal plexiglass, nel senso che abbiamo visto queste immagini di spiagge in questi cubicoli che sembravano delle specie tra la sauna e l'ufficio IMSS. Esatto, ma adesso si parla di questi divisori di tela, tessuto leggero, traspirante, antibatterico, ma insomma qual è la fattibilità di tutti questi ritrovati? Lo vogliamo chiedere a Luca Lippi, consigliere dell'Associazione dei Balneari di Viareggio. Buongiorno e bentornato. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora, situazione chiaramente difficile, tutte queste così questi ritrovati la convincono, vi convincono? No, non ci convincono e non solo non ci convincono, ma non hanno nessuna, al momento che noi sappiamo, non hanno nessun tipo di riscontro da parte delle autorità e quant'altro. Io credo che fondamentalmente si parlerà di... Stiamo parlando del plexiglass o di tutte o di qualunque strumento? Beh, il plexiglass io credo che nessuno l'abbia mai tenuto in considerazione. Gli altri strumenti, francamente, ne vengono fuori ogni giorno. Guardi, noi cerchiamo di stare dietro a tutte le notizie, ne vengono fuori ogni giorno di ogni, per cui abbiamo smesso di farlo, di stare dietro a queste cose. Stiamo in attesa che le autorità ci dicano qualcosa a livello di spazi, a livello di gestione degli stabilimenti. Noi spazi ne abbiamo in abbondanza, abbiamo spiagge enormi, abbiamo stabilimenti molto grandi, il distanziamento sociale non credo sarà un problema. Mm-hmm. Però certo il problema sarà che le spese comunque ci saranno per tante, cioè, e gli incassi saranno minori proprio perché il distanziamento sarà maggiore. Beh, allora innanzitutto diciamo che la stagione era già da noi era già compromessa adesso, sarebbe già stata avviata già da una ventina di giorni, per cui già una perdita l'abbiamo in quel senso. Poi calcola un calo del 50-60% delle presenze quest'anno, a fronte di spese di messa a norma, di sanificazione, di fornitura giusta, peraltro, ai dipendenti di tutti i dispositivi, per cui le spese aumenteranno considerevolmente, sono già aumentate le spese, perché noi siamo già prima di entrare per poter fare i primi lavori di riavviamento, diciamo, dello stabilimento, abbiamo già dovuto spendere in sanificazione e compagnia bella, per cui le spese ci sono già. Adesso aspettiamo che il governo si faccia anche un minimo avanti con noi, insomma, che ci faccia avere degli aiuti. Ma mi scusi, sì. Noi abbiamo letto di questi pannelli di tessuto leggero, traspiranti, sì, antibatterici, che in realtà ci sembravano anche una soluzione sicuramente migliorativa nei confronti del plexiglass. Ci immaginavamo delle spiagge un po' marocchine con tutte queste stoffe, però mi sembra di capire che lei dice ma insomma le soluzioni sono ancora al vaglio. Allora le vorremmo chiedere, lei come si immagina una vacanza al mare il 7 giugno del 2020? Io mi immagino una vacanza al mare con sicuramente meno persone sul mare, con spazi ulteriormente ampliati, quindi lei consideri che qua in Versilia si va, già gli ombrelloni sono in media sui 3,5 metri di distanza, per cui già di default. Io personalmente li porterò comunque oltre la distanza che ci verrà data, per cui molto più spazio, aria aperta. Aspetti a dirlo, perché qualcuno dice che la distanza potrebbe essere 18 metri, quindi... Come 18 dice? Metri fra un ombrellone e l'altro. Chi lo dice? Qualcuno dice... Io credo che al momento si parli di aree. Ah. Di area disponibile. Vedi che c'è tanto da chiarire ancora. Un ombrellone abbia 18 metri quadrati. 18 metri quadrati fra un ombrellone, per cui... Beh, lo valuteremo al momento. Parla 18 metri quadrati, stiamo quindi intorno ai 4,5 metri tra un ombrello e l'altro. se considera certo. un quadrato, facendo un calcolo veloce così. Mm. Ma, sì, sì, noi... 4-4-16 diciamo così. Sì, consideri che noi ci siamo già fondamentalmente intorno a queste... a queste a questo tipo di distanze, già cose normali. Questa non è una zona di turismo di supermassa, diciamo, è un turismo direi che si pone fra una via di mezzo fra l'elite e proprio la massa, per cui abbiamo sempre cercato di avere più puntare sulla qualità e sul rapporto col cliente che piuttosto che riempire a tappole spiagge, cioè cose normali. Certo, l'ultima curiosità le volevo chiedere, lei diceva speriamo che insomma ci siano anche un po' di supporto, ecco, che tipo di supporto? Stiamo parlando di supporto economico? Ma innanzitutto economico a fondo perduto per far fronte a questo tipo di problematiche di cui abbiamo parlato. Poi che si avvino, per esempio, io ho dei dipendenti che non hanno avuto né cassa integrazione né 600 euro. Quindi qui siamo già in ritardo. Io le parlo anche di livelli di occupazione, cioè o ci vengono dati degli aiuti economici o si fanno dei forti sgravi fiscali, ma insomma qui siamo già un po' sul tardi, mi sembra, di anche il famoso prestito che potevamo prendere in banca, al di là che ci arrivavamo da soli a prenderci il prestito in banca senza voler far polemiche, però non sono ancora mai stati erogati. Per cui noi faremo il nostro, cercando di garantire ai clienti una vacanza il più normale possibile, però ci vuole anche che il governo ci venga incontro. Tenga conto che il turismo, il nostro tipo di turismo, ogni euro che viene dato in aiuto a noi, sono soldi che restano in Italia. Noi non possiamo delocalizzare, noi non possiamo aprire una sede in Olanda per non pagare le tasse. Noi qui siamo e qui resteremo, per cui abbiamo bisogno di interlocuzione anche di qualche regola più chiara, sì, visto che ormai ci siamo. Ecco, sicuramente regole chiare, attuabili. Non due passi avanti e tre indietro, perché altrimenti ogni volta si ricomincia. Io credo che in primo luogo... Ricordiamo che di aiuti ne hanno bisogno tutti, insomma, non è che... Certamente, no, mica solo noi, ma sicuramente. Quello che voglio dire è che abbiamo bisogno di regole che siano attuabili. Allora, in primis deve venire il bene comune, ok, e la sicurezza, però cerchiamo di dare regole che siano attuabili e che abbiano un'attuabilità anche commerciale, non solo logistica, perché si rischia di avere stabilimenti che o non riescono ad aprire o se aprono falliscono. Quindi siamo un po' fra l'incudine e il martello. Benissimo, no, adesso sì, chiaro. Allora, però vediamo insomma, di risentirci quando magari ci abbiamo le regole in mano. Il messaggio di positività è che se non altro andremo al mare. Ah, sì, non è male come cosa. Un mese no? fa non eravamo molto certi. Visto quali erano le premesse, comportiamoci bene e cerchiamo di andare al mare. Esatto, e anche al mare comportiamoci bene, così ci andiamo per tutta la stagione, insomma, fino a settembre almeno. Grazie molte Luca. Grazie Luca Lippi, consigliere dell'Associazione dei Balneari di Viareggio Viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Così titolano alcuni giornali oggi, scuola, la rivoluzione azzolina, metà in classe, metà a casa e via via potremmo continuare a collezionare titoli di giornale sulla scuola, ma noi quando parliamo di scuola in questo periodo non possiamo che pensare al preside Gianni Trezzi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, preside del Liceo Parini di Seregno, l'abbiamo sempre chiamato in causa per le poesie, ce ne ha recitata una alla fine di ogni puntata del sabato, questa volta ci troviamo la domenica per parlare più precisamente del suo lavoro quotidiano, cioè la scuola. Sì. Come le pare che stiano andando? E anche perché andando? Ci tenevamo A sentirla fuori di... Anche perché... Esatto, ci tenevamo anche a disturbarla anche di domenica, che insomma per un preside tanto ormai era bello, così, sembrava giusto. Sì, sì, ma il tempo è così sospeso che ormai si fa un po' fatica a capire se è domenica, lunedì, sabato. Insomma, e infatti questa sospensione del tempo, io come dire, la spezzo e sono contenta quando viene spezzata per quel che riguarda le mie figlie dalla scuola, sia pur a distanza, perché dà loro un ordine nelle cose che altrimenti qui diventano un flusso indistinto. Eh sì, una marmellata diventa, ha ragione. E quindi il lunedì c'è un collegamento con un maestro, il martedì ce n'è un altro e così via, e questo già dà un aiuto non solo alla didattica ma anche proprio alla, no, alla vita stessa. Certo, sì, avere le attività con una tempistica ben precisa aiuta moltissimo, soprattutto in una situazione come questa in cui non si capisce bene chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, per usare una metafora ormai scritta. Precisamente. Allora, senta, come le pare questa prospettiva di rientro a scuola a settembre, così addirittura, no, a metà dentro, metà fuori? Insomma, sembra un... Dunque, è una situazione veramente complessa. Io non vorrei essere nei panni di chi deve prendere decisioni a qualsiasi livello, perché come fai sbagli probabilmente, è difficile avere una ricetta giusta. Però per quella che è, allora, io ho il mio punto di osservazione, che ovviamente è molto limitato alla scuola che dirigo e la scuola di mia figlia, perché anche ho una figlia che fa la prima media e quindi vedo un po' come lavorano anche nella sua scuola. Per quello che io appunto posso avere constatato, la didattica a distanza funziona soprattutto se si è all'interno di un processo di apprendimento già consolidato, per uscire con un esempio. Io dirigo un liceo, ho notato che il triennio, che adesso più correttamente si dovrebbe definire secondo biennio e il quinto anno, la didattica a distanza sta funzionando bene, soprattutto per quegli alunni che sono più strutturati, però anche quegli alunni che hanno fatto un po' più fatica, grazie al lavoro molto più personalizzato che si riesce a portare avanti con la didattica a distanza, ne stanno traendo giovamento. Questo a livello generale, ovviamente, perché poi bisognerebbe entrare anche nei particolari di ogni singolo alunno, diventa più complicato. Però a livello generale la cosa sta funzionando abbastanza bene. È più complicata nelle classi iniziali. Per esempio nelle prime abbiamo notato che è più difficile fare didattica a distanza, sto parlando di prima liceo, perché le classi si sono anche poco amalgamate, conoscono poco i docenti, alcuni docenti sono arrivati a fine ottobre, primi di novembre, di fatto hanno avuto un paio di mesi per conoscere le classi e conoscere gli alunni, quindi fa più fatica a funzionare, però ci ha messo un pochino a rodare, però adesso sta funzionando. Io ritengo che la didattica a distanza non può essere una gemmazione della didattica in presenza, per cui a mio parere fare didattica a distanza con la classe intera funziona poco. Si può funzionare da un punto di vista relazionale, vedersi, non so, ogni 2-3 giorni, un paio di volte alla settimana per vedere come sta andando, se ci sono domande comuni, però funziona molto bene con i gruppi, sia con i gruppi di livello, per cui io metto insieme 5, 6 fino a un massimo di 7 alunni che hanno un livello di competenza iniziale simile e lavoro con gli alunni che sono più in difficoltà, cercando di recuperare le eventuali lacune o le difficoltà che hanno incontrato nel percorso, e con gli alunni che invece sono in una condizione di preparazione migliore, andando avanti, quindi valorizzando le eccellenze, come si dice sempre in Italia, però si è sempre fatto fatica classe intera a farlo. Un'altra cosa che potrebbe funzionare, che noi non abbiamo ancora sperimentato, ma che potrebbe funzionare, soprattutto se la scuola a settembre, ottobre funzionerà in una modalità mista, un po' a distanza, un po' in presenza, potrebbero essere i gruppi cooperativi, a cui io credo molto, e quindi si potrebbero fare gruppi di livello a distanza e gruppi cooperativi in presenza, sperando naturalmente che gli alunni possano pian piano avvicinarsi a un metro di distanza, perché poi c'è anche questo problema. Certo, vedere una ripresa dell'attività a settembre così come era fino a febbraio direi che è impensabile. Mediamente le classi sono sulla trentina di metri quadrati, poi c'è qualcuno più fortunato che ha qualche metro in più, ma noi abbiamo classi da 27-28, tutti insieme ovviamente non ci possono stare, quindi certo. Bisognerà trovare una soluzione, però ripeto, per i licei, per le scuole superiori in genere, che è il segmento di scuola che dirigendola conosco meglio, a mio parere è una modalità che potrebbe funzionare. I docenti hanno fatto in 2 mesi un corso di formazione che neanche in 10 avrebbero fatto probabilmente se non fossero stati costretti dagli eventi, e quindi c'è ormai una conoscenza, una competenza che si sta consolidando anche a livello di uso delle nuove tecnologie, che sarebbe un peccato buttare. Ma lei la vede quindi più difficile però per età inferiori rispetto al liceo? Per le classi della scuola primaria sinceramente la vedo più difficile, non impossibile, la vedo più difficile. Specialmente per chi comincia, io immagino questi poveri bimbi della primaria, di 6 anni che si trovano in prima spaesati, perché anche se dovesse funzionare, che io ne faccio venire che so una decina in un giorno e una decina in un altro, a parte il livello simbolico che comunque è importante, il primo giorno di scuola ce lo si ricorda per anni, e questo sarà un primo giorno di scuola ovviamente dimezzato, fa venire in mente Calvino insomma. Sì. Il primo giorno di scuola dimezzato mi sembra un bel titolo. Mi scusi Preside, le volevo chiedere una cosa, intanto ringraziarla per l'analisi e anche per aver giustamente ricordato che vi state tutti interrogando e che non è facile trovare una soluzione e quindi come ha giustamente detto, come fai sbagli, quindi prima diciamo di attaccare chi sta decidendo anche provare a trovare delle soluzioni alternative, ma le volevo chiedere una cosa sulle decisioni prese dal nostro ministro Azzolina che diceva metà a casa, metà a scuola, e giustamente alla scuola ha risposto, ha detto va bene, però bisogna raddoppiare gli insegnanti, raddoppiare le ore dei turni, e invece la ministra ha risposto no, mentre si fa la lezione a scuola con la metà della classe, l'altra metà della classe ascolta da casa. Ma questo sì. È possibile? Guardi, tutto è possibile. Direi ingegnandosi tutto è possibile. Faccio un po' fatica. Sì, scusi, allora, forse possibile non è la domanda giusta, è sano allora le chiedo. Allora, questo è il mio parere personale, ci mancherebbe altro, ognuno che ha responsabilità deciderà. Però mi sembra, come dicevo prima, la gemmazione della didattica in presenza, non cambia molto. Secondo me invece, almeno guardi, facendo questo lavoro, per me il bicchiere è sempre mezzo pieno. Devi essere ottimista, come dire, costituzionalmente ottimista, altrimenti questo lavoro non lo fai. E l'idea mia personale è che sia una straordinaria occasione per rinnovare la didattica, ma come dicevo non si può pensare di rinnovare la didattica mantenendo la modalità in presenza anche a distanza, perché se tu hai mezza classe in presenza e mezza classe a distanza cambia nulla, no? Quello che invece secondo me si può lavorare è posto che andrebbe verificato dal punto di vista scientifico, ma io sono abbastanza convinto che sia così. Cioè, se io faccio meno ore, ma le faccio più mirate, più personalizzate, posso anche fare qualcosa di meno rispetto al monte ore settimanale. E perché mi rende di più. E lavorando facendo una didattica in presenza e lavorando con la didattica a distanza, guardate, di modalità ce ne sono tante, per esempio c'è una modalità che si chiama della classe capovolta o flipped classroom, che secondo me funziona molto bene, per cui gli alunni che sono a casa lavorano su quanto hanno impostato in classe o addirittura su argomenti che vengono proposti dall'insegnante o addirittura dagli alunni stessi, ovviamente legati al tema su cui si sta procedendo. E in questo modo si riesce a fare un lavoro di ricerca in cui il docente diventa una sorta di, adesso non vorrei dire un primus inter pares, forse un po' esagerato, ma un facilitatore. Brunner, che è stato un grandissimo teorico dell'educazione, oltre che anche un pratico, nel senso che poi ci ha anche lavorato sopra quando è stato responsabile della scuola in America, ha sempre detto che questa è una modalità che funziona, cioè una modalità in cui il docente diventa una sorta di capoprogetto, diciamo così, e io porto avanti con gruppi di alunni, avendo la responsabilità di diversi progetti, un lavoro in cui sono loro stessi a procedere e io li guido, li indirizzo e mi interrogo anche, no? Io dico sempre che la scuola è il regno della domanda impropria, e io distingo le domande in tre tipi, cioè c'è la domanda retorica, io pongo la domanda e tutti sanno la risposta, c'è la domanda impropria, che è quella in cui io pongo la domanda perché però so la risposta e pretendo da te quella risposta che io ho in mente, ed è quella che purtroppo nelle scuole si utilizza. Quella che non si utilizza mai è la domanda autentica, e la domanda autentica è: io pongo la domanda e non so la risposta, la pongo a te e insieme cerchiamo la risposta. Questo secondo me è una modalità che potrebbe funzionare. Con questo, con questo progetto di scuola a distanza, se ben tarato, potrebbe essere una modalità, secondo me, proficua. Certo, bisogna sperimentarla, perché nessuno ha, come dicevamo prima, la bacchetta magica. E certo, però ce la possiamo inventare e cercare di non ripetere lo stesso modello solito che non funzionerebbe. Quello, ecco, fondamentalmente. Secondo me sarebbe la fine, diciamo così, della sperimentazione in atto. Cioè, se la didattica a distanza significasse solo metà classe sta a scuola e metà classe sta a casa, ripeto, anzi, secondo me diminuirebbe ulteriormente la qualità, perché chi sta a casa, tra problemi di connessione, tra il fatto che comunque quando non ti guardi nelle spalle degli occhi il livello di attenzione è inevitabilmente più basso, diventerebbe ancora peggiore, ecco. Ripeto, secondo me l'Italia fa un po' fatica a sganciarsi dalla lezione frontale, che per carità io non demonizzo, perché ci sono. Ma non è l'unico modello. Non è l'unica forma, molto giusto. No. Gianni Tresi, noi dobbiamo salutarla, parleremo con lei di scuola. Grazie, per ore, Preside. Però. E anche di poesia. Spero, di aver dato qualche indicazione utile. Poi sì, ripeto, io credo che secondo me ogni scuola ce l'ha data. Ogni scuola deve soprattutto io deve ho capito che voglio rimanere, voglio essere nella metà che sta a casa quando c'è il compito in classe, almeno tengo il libro e non devo neanche metterlo sulle ginocchia, lo posso mettere sul tavolo. E quello non so se, ecco, potrebbe essere un'idea. Precisamente. Grazie molte. Grazie mille. Grazie, bene, buon lavoro. Grazie a voi, buona lavoro giornata, tutti, buona grazie di tutto. Salve, grazie, salve. Grazie. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E per indovinare il personaggio della settimana ci ha chiamato Francesco dalla provincia di Varese. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Tutto bene, voi? Benissimo, grazie. Benissimo, grazie. Adesso puntiamo dritti al caffè dopo la fine della puntata. Bene, ve lo meritate. Grazie. Allora, Francesco, qual è secondo lei il personaggio? Chi è? Cos'è il personaggio della settimana? Ma secondo me è Bill Gates. Mm-hmm. È Bill Gates, posso spiegare perché ho pensato, certo, a lui? Deve. Perché è noto che lui è un grande filantropo, fa del bene da tanti anni, ma questa settimana ha fatto parlare di sé perché ha contattato con una telefonata il presidente Giuseppe Conte, e quindi ha ribadito l'impegno dell'Italia in questa lotta contro il coronavirus, e quindi ne ha ricevuto poi il ringraziamento del nostro presidente. Io ho pensato questa cosa. Sentiamo cosa ne pensa il notaio. Non era Bill Gates, il però notaio è inflessibile. È spietato, ma la notizia è ottima. Abbiamo tutti letto di questa telefonata fra Bill Gates e Conte, ce la siamo anche un po' immaginata. La notizia è bella. Bill Gates, tra l'altro, sta facendo parlare molto di sé in questo periodo, ma non era lui. Non era lui, però la ringraziamo, grazie Francesco, e diamo il terzo indizio a questo punto. Giusto Laura, assolutamente, dai il terzo indizio. Allora, il terzo indizio è che sta in provincia, questo proprio per restringere il campo rispetto ai Bill Gates, diciamo così. Quindi il personaggio ha pensato al bene altrui, è stato ringraziato e sta in provincia. Ehi! Abbiamo già parlato di scuola con il preside Trezzi, continuiamo a parlare di scuola, ma non solo, con il sindaco di Firenze, Dario Nardella, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Sindaco, noi abbiamo letto di queste scuole aperte a metà maggio, non tanto per la didattica ma per i servizi educativi. Vorremmo un po' capire cosa state preparando a Firenze su questo tema. Vi proponete tra l'altro un po' come pilota per l'Italia, come esperienza pilota per l'Italia, quindi a maggior ragione ci incuriosisce. Beh sì, allora già dopo il decreto sul 4 maggio noi ci siamo organizzati per aprire parchi e giardini e allestire dei servizi di supporto alle famiglie e ai bambini per orientarli nelle attività motorie che potranno fare, come sappiamo, dal 4 maggio. Questo servizio si baserà sulla disponibilità dei nostri educatori e anche sul personale volontario. Quando poi il governo deciderà, come io spero e credo, di autorizzare anche i centri estivi, lo ha annunciato la ministra Bonetti, noi saremo pronti con un piano che peraltro abbiamo inviato al governo come punto di riferimento per aprire le attività di centri estivi con gruppi più piccoli, un rapporto quindi più alto tra numero di educatori e bambini, ma nel frattempo, se verrà cambiato il decreto del 26 aprile, noi potremo già nei giardini delle scuole, scuole elementari, scuole dell'infanzia, allestire un servizio di supporto ai bambini in modo molto più organizzato. Non sono proprio dei centri estivi, ma sono un qualcosa di strutturato che noi facciamo con i nostri educatori per aiutare le famiglie in questa fase molto difficile, soprattutto per i genitori. Esatto, soprattutto di supporto ai genitori, direi. Esatto, proprio così, per aiutare i genitori, perché torneranno a lavorare dal 4 maggio. Certo, la soluzione più adeguata sarebbe quella di aprire i nidi e le scuole dell'infanzia. Noi abbiamo fatto più volte questa richiesta alla ministra Giolina, se fosse autorizzata a Firenze saremo pronti anche per questo, ovviamente subito dopo l'anno scolastico, quindi dal 10 giugno in poi, però anche i nidi e le scuole dell'infanzia sono preziosi perché i genitori che vanno a lavorare non si trovino nella disperata situazione di dover lasciare i bambini ai nonni, cosa che sarebbe assolutamente da scortigliare. O scegliere se tornare al lavoro o meno. Esatto, scegliere se tornare al lavoro o meno. E come sempre, purtroppo a pagare sono soprattutto le donne, per via del congedo parentale, per via del fatto che vabbè, tradizionalmente è stato così. Potrebbero rinunciare, ecco, ma noi speriamo che tutto questo non avvenga, perché se il governo ci fa riaprire nidi, scuole dell'infanzia, centri estivi e ci fa sperimentare già ora a maggio questi servizi negli spazi verdi, avremmo fatto già un grande passo. Sicuramente c'è anche, vista dall'altra parte, cioè quella del bambino, questa potrebbe essere un riavvicinarsi, a una situazione parascolastica, imparando le nuove regole del gioco anche. Esattamente. Molti bambini si trovano un po' spaesati. Voi immaginate appunto rimanere chiusi per più di 2 mesi, tra l'altro i bambini per molte settimane non potevano uscire per nessun motivo. E quindi, come dicono anche gli esperti, hanno sviluppato delle, diciamo, degli atteggiamenti di grande timore, di instabilità psicologica e fisica anche nell'uscire fuori all'aperto. Quando si riadatteranno, comunque si riadatteranno in un mondo completamente diverso da quello che conoscevano prima della quarantena, e quindi le mascherine sopra i 6 anni, i distanziamenti che per i bambini sono molto difficili da comprendere, io lo vedo con i miei figli, e tutta una serie di regole che per noi adulti sono più gestibili, più sopportabili, per i bambini sono invece molto più complicate. E quindi è utilissima questa fase di adattamento che noi potremo sperimentare proprio in giardini, aree verdi delimitate, organizzate e controllate. Sindaco, la possiamo portare anche sul tema del turismo a Firenze e comunque della riapertura dei tanti locali? Abbiamo visto che è una questione su cui vi state, no, confrontando. Sì, purtroppo è una ferita profonda quella del turismo. Noi abbiamo calcolato con l'IRPET, l'Istituto Regionale della Programmazione Economica, circa 1 miliardo di euro di danni su tutta l'area metropolitana della Toscana centrale. Sono danni pesantissimi che si ripercuotono sui posti di lavoro, sulle piccole imprese. Nella filiera del turismo c'è anche la ristorazione bar, e per questo noi abbiamo anche in anticipo rispetto al governo consentito la vendita da asporto. E io mi ho chiesto che la regione toscana tolga il distanziamento di 1,80 m, che nei luoghi di lavoro rischia di essere ancora più limitativo rispetto al metro che è stato fissato dal governo. In più il mondo del turismo soffrirà per molti mesi, perché il turismo internazionale, che per Firenze è fondamentale, certo, tornerà tra molto tempo, quando cioè a livello globale l'epidemia rientrerà. Non possiamo che scommettere su quello domestico. Aspettiamo con ansia il decreto del governo, perché Franceschini ha annunciato questi voucher per le famiglie, per le vacanze, e noi ci stiamo organizzando per offrire a tutte le famiglie italiane che vengono a Firenze una scontistica che sia equivalente ai voucher del governo, proprio per riaprire le porte di Firenze agli italiani. Del resto è bello che gli italiani possano riscoprire l'Italia, almeno nel dramma di questa emergenza si può trovare qualche elemento positivo. Però certo, con il turismo domestico non riusciremo a recuperare questo danno economico micidiale. Io volevo chiederle se Carlo prego. Immagino che non si riuscirà a recuperare tutto quel miliardo, anche perché poi sono sempre i soldi nostri che quindi continuano a girare. Ma le volevo chiedere un'altra cosa, l'abbiamo già detto ieri annunciando l'intervista con lei, sindaco, che ha proposto dal 1 giugno di dare il suolo pubblico gratis senza pagare il canone. Immaginiamo che si tratti soprattutto appunto di bar e ristoranti che possano mettere dei tavolini fuori all'esterno, qualcuno ha anche detto al posto dei parcheggi, quindi ci si aspetta forse una protesta, e quindi volevo che ci raccontasse questa sua iniziativa partendo anche dalla domanda su qual è lo spazio di manovra che hanno i sindaci, visto che abbiamo visto diversi sindaci ultimamente lamentarsi del protagonismo dei governatori. Beh, allora purtroppo lo spazio di manovra è meno di quello che si possa immaginare, nonostante che i sindaci siano eletti direttamente dai cittadini. Si trovano però esposti ad un diluvio di ordinanze regionali. Toscana, anche i governatori parlando, comunque. Sì, da parte dei presidenti delle regioni. In Toscana siamo quasi a 50 ordinanze. I sindaci non sempre vengono ascoltati, non siamo sempre stati coinvolti, e quindi credo che su questo si debba cambiare atteggiamento per non creare confusione tra i cittadini, al di fuori della polemica, a me non interessa la polemica. Quello che conta è il bene dei nostri cittadini. Troppe ordinanze diverse tra di loro generano molta confusione. Anche questa cosa che in Toscana il distanziamento sia di 1,80 m, mentre nel resto d'Italia è di 1 m, francamente non la capisco. Non so cosa ci abbiano i toscani di tanto diverso rispetto al resto degli italiani per giustificare misure diverse di distanziamento. Hanno le braccia lunghe. Sono molto alti e molto grossi. Detto questo, però, e sul suolo pubblico gratuito? Ecco, infatti, il suolo pubblico gratuito dal 1 di giugno noi siamo attrezzati, ci stiamo lavorando in questi giorni per dare spazio in più gratuito per mettere sedie e tavolini da togliere poi alla fine della giornata a tutti i locali, anche coloro che già hanno dei dehors, daremo la possibilità di ampliare questo spazio sempre gratuitamente. Lo scopo è duplice: primo, di sicurezza sanitaria, perché come dicono i medici, voi più volte avete ricordato, all'aperto con le temperature alte il rischio del contagio si abbassa moltissimo. E in secondo luogo consentiamo ai piccoli locali, ristoranti, di poter lavorare dal primo giugno utilizzando lo spazio aperto. Ora noi utilizzeremo, diciamo, tutte le aree pedonali e anche qualche area sulla base del codice della strada. Ovviamente non possiamo intralciare il passaggio dei veicoli, però se c'è qualche parcheggio che possiamo sacrificare, ma parlo di poche aree di sosta di automobili, e consentire a queste aziende di sopravvivere, io volentieri darò spazio a queste aziende in questa fase così difficile, perché il primo giugno, dico quest'ultima cosa, è vero che potranno riaprire, ma molte imprese della ristorazione, locali e bar, di fatto continueranno a perdere posti di lavoro e soldi, perché i distanziamenti interni sono molto limitativi. Quindi in un piccolo locale, in un piccolo bar, con il distanziamento entrano una, due, tre persone. Inoltre i costi di sanificazione sono altissimi. La diffidenza dei cittadini a entrare in luoghi chiusi, andare al ristorante, è ancora molto alta. Non è che il primo giugno è una data salvifica per migliaia, certo, di ristoranti e bar. Questo lo dobbiamo ricordare. Per questo, secondo me, l'area aperta, mettere tavolini e sedie all'aperto, è l'unica vera misura forte e efficace che possiamo mettere in campo. Sindaco, allora in bocca al lupo per la ripresa, per tutto, e anche per la parte scolastica, e speriamo di risentirci presto con buone notizie. Abbiamo la viabilità. Grazie. A tra poco. Si può fare. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Premio L'altro pianeta. E il premio L'altro pianeta questa settimana lo vogliamo attribuire, diciamo, all'Università Ca' Foscari di Venezia in generale, poi dopo scendiamo nei particolari, per una nuova laurea magistrale che unirà scienza e discipline umanistiche per comprendere e raccontare i cambiamenti climatici. Buongiorno a Shaul Bassi, coordinatore della nuova laurea appunto in Environment Humanities della Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno. Buongiorno. Grazie del premio. Ci fa piacere, noi come sempre teniamo gli occhi aperti su ciò che riguarda l'ambiente, la crescita sostenibile e così via, no? L'economia circolare. Insomma, voi cercate di unire a tutto questo anche discipline umanistiche. Come mai nasce questo desiderio? È un desiderio che viene da una lunga esperienza di Ca' Foscari, che è stata la prima università in Italia ad avere una laurea in scienze ambientali, dal fatto che viviamo in una città simbolo della lotta contro il cambiamento, certo, climatico, e anche forse mi verrebbe da dire da una frase di un grande scrittore intellettuale indiano, Amitav Ghosh, che in un libro fondamentale che si intitola La grande cecità scrive la crisi del clima è una crisi dell'immaginazione. Quindi da alcuni anni in varie parti del mondo si è cominciata una riflessione umanistica su cosa vuol dire affrontare questa crisi, sulla nostra nuova dimensione di abitanti dell'antropocene, in cui gli esseri umani modificano l'ambiente e non semplicemente lo abitano. E quindi ci siamo detti: mettiamo insieme tutte le risorse accademiche di cui disponiamo e diventiamo la prima laurea in Italia, la prima laurea magistrale in Italia, ce ne sono forse una ventina in tutto il mondo, quindi si tratta per l'appunto di una prospettiva che sta prendendo piede di fronte alle urgenti esigenze planetarie, che metta l'ambiente al centro della propria riflessione e lo affronti da tutte le angolature. Quindi gli studenti avranno una solida base scientifica, studieranno ecologia, studieranno chimica, studieranno geografia, e accanto a queste, insieme a queste, perché ci tengo molto a sottolineare, sarà una vera laurea interdisciplinare, quindi le discipline non saranno semplicemente... Quindi si va ad annullare quella tradizionale, no, differenziazione ramo scientifico, ramo umanistico, e lo si unisce tutto con l'obiettivo di studiare appunto l'ambiente che ci circonda. Mi verrebbe da dire che andiamo perfino oltre, andiamo a superare quella che è una classica dicotomia tra natura e cultura. Noi siamo proprio abituati da una antichissima tradizione a pensare in termini di ciò che è naturale e ciò che è culturale. Noi vogliamo dimostrare che in realtà il concetto stesso di natura è formulato all'interno di una e più culture, tant'è che un'altra delle cose che faremo è raccontare l'ambiente da un punto di vista non solo occidentale, ma anche indiano, cinese, giapponese, in forma comparativa. E che la cultura va analizzata per le sue componenti ambientali, quindi anche una, come dire, una nuova analisi di tutto il nostro patrimonio culturale in chiave ambientale. E anche questa mi sembra una particolarità ovviamente di Venezia, il fatto di occuparsi non solo della parte occidentale. Ma le volevo chiedere un'altra cosa, sempre citando Gosch, che ha citato lei, che disse una famosa frase: visto ciò che lascia presagire per il futuro della Terra, credo che il cambiamento climatico dovrebbe essere la principale preoccupazione degli scrittori di tutto il mondo. E questo fu un'affermazione strana, perché credo che sia esattamente quello che state cercando di fare voi, cioè che non se ne occupino solamente gli scienziati, ma forse che dobbiamo arrivare a una consapevolezza culturale, quindi forse l'ambiente e i problemi legati all'ambiente vanno anche raccontati in un modo nuovo, vanno raccontati non solo con le statistiche, le percentuali e la CO2, ma anche con vite di persone e persone che si inventano un approccio differente. Quindi sono molto contento di questa unione. Mi chiedo a che cosa potrebbe portare tutto questo? Beh, noi speriamo che possa portare alla formazione di una, diciamo, nuova generazione di giovani persone che sappiamo essere più sensibili a questa crisi, che dovranno essere quelli che ci guidano a un nuovo mondo, quello che dobbiamo necessariamente costruire per non soccombere ai pericoli della crisi. Ma poi faranno gli scrittori o faranno anche dell'altro, immagino? Stavo per dire appunto questa cosa. Dunque, ci sono già, sì, perché poi naturalmente no, una laurea deve anche creare una professione. Ecco, io voglio essere molto onesto. Io credo da un lato che ci siano già delle professioni che richiamano e richiedono le competenze che noi ci apprestiamo a fornire, e cioè già stato segnalato che nella scuola ci sarà sicuramente bisogno di educatori ambientali, cioè l'ambiente dovrà diventare una materia assolutamente obbligatoria, come già qualche ministro aveva ipotizzato. In tutte le istituzioni culturali ci sarà bisogno di qualcuno che ragioni in termini per, diciamo, di una nuova coscienza ecologica a cui noi puntiamo. Ci sarà bisogno nelle aziende di consulenti, cioè ogni azienda, ogni business deve porsi questo problema di come essere sostenibile, ma quello appunto che ci tenevo a dire è che l'università non insegue il mercato, l'università anticipa quelle che saranno le esigenze del mercato del lavoro. Noi siamo sicuri che in tempo, qualche anno, davvero questa nuova coscienza ecologica sarà un ingrediente fondamentale, come tra l'altro appunto testimoniano tante iniziative come anche la vostra trasmissione. Una nuova coscienza ecologica sarà, come dire, il mattone. Quando Gosch dice che gli scrittori devono occuparsi di quello. Nello stesso luogo lui dice, a posteriori ci si chiederà perché non si sono occupati prima di questo. E aggiungerei solo che le storie non sono patrimonio solo degli scrittori. Anche gli scienziati raccontano storie, anche gli economisti raccontano storie. Tutti noi raccontiamo delle storie, e quindi anche capire come funzionano le storie è un meccanismo fondamentale per entrare e modificare il nostro immaginario. Le faccio un'ultima domanda per capire, se mi posso iscrivere io, che tipo di formazione, tipo di formazione ci vuole per arrivare? Allora, noi proprio perché costruiamo una laurea nuova, innovativa ed eclettica, ci rivolgiamo a un ampio spettro di laureati, laurea triennale, che possono essere laureati sia in materie letterarie che in materie economiche, in lingua, in economia, o a chiunque abbia poi una serie di competenze acquisite che si possono verificare. Una cosa fondamentale da dire, è stato ricordato, la nostra laurea si chiama Environmental Humanities perché per scelta sarà tutta in inglese. Noi abbiamo deciso di essere internazionali, abbiamo deciso di dare una formazione che permetta agli studenti di essere già in qualche modo professionalmente appetibili su scala globale, anche perché questa è una sfida globale. Quindi noi, diciamo, per non annoiare con tecnicismi, invitiamo a scoprire quelle che sono le competenze richieste. Sicuramente non serve avere una laurea in chimica o una laurea in scienze ambientali, veramente ci rivolgiamo a laureati di varie discipline. Dunque, si comincia ovviamente con il prossimo anno accademico, si comincerà un po' a distanza, vista la situazione? Si comincerà, noi siamo pronti a tutti gli scenari, siamo pronti ad accogliere gli studenti, sarà possibile entrare in classe, sarà possibile cominciare a distanza e continuare in classe, siamo davvero pronti, anche perché, triste dirlo, ma in certo senso conferma la nostra scelta, la crisi del coronavirus è a tutti gli effetti una crisi legata alla crisi più ampia dell'ambiente, con questa interferenza degli esseri umani nel mondo animale, e non a caso questo è uno dei temi che si devono affrontare da tutti i punti di vista, non solo scientifici ma anche appunto umanistici. Carlo, non so se hai domande. Grazie mille. Ok, No, volevo ringraziare molto e direi che ci ha spiegato anche che il prossimo conduttore di Si può fare sicuramente uscirà da quell'università e da questo nuovo corso. E noi attendiamo. Assolutamente. Attendiamo. Assolutamente. Grazie molte. Ciao Albassi, Università Ca' Foscari. Grazie. Abbiamo un po' di concorrenti per indovinare il personaggio della settimana, intanto hanno chiamato l'824-0024, il primo che vedo, Gianfranco dalla provincia di Lecce, buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti della trasmissione. Grazie Gianfranco. Buongiorno. Ci dica chi è il personaggio secondo lei? Gattuso. Gattuso, l'allenatore del Napoli. Ha devoluto sì il suo stipendio in favore di magazzinieri e personale altro del Napoli, era si avevano lasciato purtroppo senza stipendio il resto del personale. Non era lui, però corrispondeva certo ai nostri requisiti. E Gianfranco, grazie molte allora per averci chiamato. Grazie purtroppo mille. Non è lui, ma ci sono tante occasioni per riprovare. Alla prossima, grazie. E adesso c'è Giovanna dalla provincia di Bologna. Buongiorno. Buongiorno Giovanna, ci dica. Buongiorno. Ma io penso che sia, e poi anche se non lo è, comunque merita una menzione, il medico di Bologna dell'ospedale maggiore, che doveva andare in pensione ieri, ma che ha rinunciato ad andarci, ha rinunciato anche alle sue ferie per continuare a lavorare in ospedale, aiutare i suoi colleghi in questo periodo del coronavirus. Proviamo. Non era lui, però ha fatto bene a ricordare. Ma sicuramente, esatto, sicuramente merita la menzione di cui ci ha ricordato, la ringraziamo molto. Grazie a voi, grazie. Grazie, con Giovanna ci dobbiamo salutare, la risposta sarà su Facebook nei prossimi giorni sulla pagina di Si può fare. Un ringraziamento in redazione a Danilo Ditrani, Andrea Piana, Edoardo Lavezzari che è anche in assistenza, Carmelo Lauricella in regia, da Laura Bettini appuntamento alla settimana prossima e ciao da Carlo Gabardini, grazie a tutti, ci sentiamo settimana prossima 8:30, Si può fare.